oramai è finito. E questo è falso. E che non ti ho mai realmente amato. E questo è brutto. E perché? E non ti basta la violenza di uno sguardo trascorso. Ormai vuoi di più e non si ferma il tuo odio nascosto. Ascolterò, sorriderai ma non ci crederò, maledirai ciò che sono e sarò, e me lo dirai ma ti dimenticherò. Sarò lì, sarò lì.